I ragazzi di Fridays for Future hanno organizzato questo flash mob per attirare l'attenzione su un tema che è centrale, direi, in questo periodo, soprattutto in questo periodo quando sappiamo che nei primi 32 giorni dell'anno abbiamo avuto 16 sforamenti delle soglie di legge di polveri sottili, di particolare di PM10, e questo significa che la salute umana è a rischio. Se un giorno su due ci troviamo a respirare dosi di particolato così elevate, sappiamo che ci sono effetti diretti su numerosi tipi di patologie, da quelle cardiovascolari alle vie respiratorie, e fino a effetti anche molto, molto più pesanti, perché le particelle molto sottili possono entrare nel sangue, entrare in circolo e causare danni anche cerebrali, quindi ci sono effetti insomma molto, molto devastanti, diciamo così. La qualità dell'aria è un tema che merita di essere messo al centro del dibattito politico, assieme ai cambiamenti climatici. Sono due temi correlati sicuramente, ma un po' diversi, sia per il tipo, diciamo, di emissione, sia per gli effetti. Mentre l'anidride carbonica sicuramente ha un effetto grave sulla stabilità climatica del pianeta, la qualità dell'aria ha un effetto immediato e grave, altrettanto grave, sulla salute umana. Tutti gli studi che escono ormai a un ritmo abbastanza serrato sugli effetti dell'inquinamento sulla salute ci dicono questo, cioè ci dicono che l'inquinamento, e in particolare l'inquinamento da traffico, che è una delle fonti emissive principali, insomma, delle polveri sottili e del biossido di azoto, che è un altro inquinante abbastanza pericoloso, gli effetti sono gravi, si va da patologie, insomma, ci sono effetti addirittura sul cervello, quindi problemi per esempio di apprendimento dei bambini, demenza senile, Alzheimer, insomma, si comincia a ragionare su degli effetti che sono molto preoccupanti. Noi come Pesa su questo tema chiediamo da tempo, e lo chiederemo sempre più spesso da qui in avanti, un'indagine epidemiologica. Cioè è giunto il momento che anche a Bologna si faccia uno studio approfondito sugli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana. Cioè non è possibile che noi mandiamo avanti progetti, diciamo, controversi, non voglio dire parolacce, come il passante di mezzo che aumenterà l'incidenza del traffico veicolare lungo quella tratta che è già la più inquinante di Bologna, sono quei 13 chilometri da Borgo Panigale a San Lazzaro, che da soli fanno il 40% dell'inquinamento al traffico veicolare nell'area urbana di Bologna. Ecco, non si possono affrontare progetti del genere, non si può pensare di trasformare i prati di Caprara in condomini e centri commerciali o di potenziare ulteriormente l'aeroporto generando nuovo traffico indotto e senza sapere esattamente quante persone a Bologna si ammalano o muoiono come conseguenza diretta dell'inquinamento. Cosa che va assolutamente fatta, cioè è urgente, noi la chiederemo sempre più insistentemente. E il lavoro che sta facendo Aria Pesa è quello di creare rete, fare rete con le altre associazioni, in questo caso è Friday for Future, è quello di creare collegamenti con altre comitati, altre realtà, altre associazioni per cercare di sensibilizzare la popolazione di Bologna. E direi che questo ormai è un non voglio dare tutto il merito ad Aria Pesa di questa cosa, perché mi sto accorgendo che è sempre più diffusa questa necessità di fare rete. Per noi era nostra filosofia costitutiva, cioè noi siamo nati come rete di cittadini innanzitutto, ma anche associazioni, collettivi, comitati, centro delle scuole, si sono riuniti per mettere questo tema della qualità dell'aria un po' al centro del dibattito pubblico. Ecco, questa tendenza a fare rete, a unirsi, si sta diffondendo sempre di più. Per esempio, recentemente, il 7 dicembre del 2019, dell'anno scorso, con una rete di questo tipo che includeva Friday for Futures, Extinction Rebellion, Lega Ambiente, Rigenerazione non speculazione, Aria Pesa, i comitati antipassante, spero di non dimenticare nessuno, Studenti per l'Ambiente, spero di non dimenticare nessuno, ecco, con questa rete di realtà civiche siamo andati a fare un piccolo blocco dell'ingresso della tangenziale, dopo una bellissima biciclettata, molto allegra, molto colorata, che ha attraversato le vie di Bologna.